e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, finalmente è arrivato il nostro momento. In che senso? Sono le 10.35. Ah, ecco, in quel senso là, quello canonico, quello giusto. Arrivano le amiche del mattino, di molto cuore bene, denari. Molto bene, si apre il nostro salotto, benvenuti, tè, caffè, quello che gradite. Allora, per la parte di cuore, oggi è una data importante, una data che vale doppio, 7 febbraio, si svolgono contemporaneamente due eventi, la prima giornata nazionale contro il bullismo nelle scuole e il Safer Internet Day, la giornata internazionale per la promozione di un uso più sicuro del web, in particolare tra i piccoli, tra i bambini. Due eventi diversi che, al di là della data, hanno tanti elementi in comune. Lo sappiamo bene che i ragazzi, e anche non solo loro, gli adulti in generale, vivono una vita sempre più social, sono sempre più connessi via smartphone, hanno un uso, direi, molto disinvolto del web, dove possono costruirsi una nuova identità. Questa è un'opportunità però che spesso non sanno gestire e che inevitabilmente li espone a rischi anche molto molto seri: contatti indesiderati, molestie, ma anche vere e proprie persecuzioni che arrivano ad avere i toni e la crudeltà di una condanna da parte dei bulli che in rete diventano cyberbulli. Di bullismo e di cyberbullismo e soprattutto della necessità di un uso più sicuro e consapevole del web parliamo oggi con Alberto Pellai, medico, scrittore e psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, buongiorno a tutti. Benvenuto. Che ci accompagnerà nel corso di questa prima parte della trasmissione. Nella seconda parte invece Deborah, stavo dicendoti Alberta. Allora, con qualche giorno un po' di ritardo sulla cronaca, ma non è mai troppo tardi naturalmente, riprenderemo il caso delle polizze vita sottoscritte in favore appunto di Virginia Raggi, sindaco di Roma. Naturalmente nessun commento politico faremo in questa trasmissione, ma cercheremo di capire come, quando, in quali circostanze è possibile in realtà sottoscrivere degli strumenti assicurativi rendendo beneficiario naturalmente qualcun altro di diverso dal contraente. È possibile, lo fanno i nonni per i nipoti, quindi esploreremo dal punto di vista di cuore denari questo tema. Allora intanto vi aspettiamo, il nostro numero verde 800 24 00 24, potete mandarci messaggi al 349 238 6666 e anche WhatsApp. Allora aspettiamo naturalmente le vostre domande, le vostre esperienze, i vostri dubbi, non abbiate timore anche a raccontarci le vostre paure, condividete con noi le vostre storie. Se portate nel cuore una ferita, un tatuaggio emotivo, come lo definisce Alberto, che si è impresso nel vostro cuore quando i vostri compagni vi deridevano, vi bullizzavano, o forse siete stati dei bulletti e volete raccontarci che cosa vi spingeva a prendere di mira un vostro compagno. Magari c'era un disagio che non riuscivate a capire, che poi con il tempo, diventando grandi, avete ben individuato. Alberto, tu ti sei occupato del problema in tempi non sospetti, hai scritto libri, testi, canzoni, favole per bambini e insieme parlavamo, ricordo, di bullismo e di cyberbullismo. A Questa Casa Non È un Albergo, che è stato il primo programma dedicato alla relazione tra genitori e figli. Sono passati tanti anni, il bullismo d'altronde non è un fenomeno nuovo, ma la sua dimensione è drammaticamente cresciuta in questi ultimi anni. Ci sono fior fiori di dati, ma io credo che, al di là dei numeri che tu ci racconterai naturalmente, il punto sia comprendere un po' il fenomeno nella sua essenza e quindi cercare di capire le cause di questa forma di violenza che spesso nasce da un disagio, per arrivare quindi a trovare delle soluzioni e anche delle strategie efficaci per prevenirlo, se no continuerà a crescere. Alberto. Sì, in realtà in questo momento di bullismo si parla moltissimo e, come per tutti i fenomeni di cui siamo diventati consapevoli, i numeri sembrano anche incrementarsi, ma in realtà si è incrementata la rilevazione del fenomeno. Probabilmente è stato un fenomeno spesso sottostimato, sottoconsiderato. È vero in questo momento che culturalmente ci sono anche delle variabili che lo rendono più facile. La nostra è la società dove la prepotenza e la potenza fine a se stessa, cioè finalizzata al controllo sull'altro, sembrano dare grandi vantaggi. È un momento anche dove spesso i nostri figli sono davvero sostenuti a essere molto concentrati su se stessi, è la società dell'io, è chiamata proprio un po' la società del narcisismo, e questa concentrazione su di sé impedisce l'empatia, cioè sentire quello che sente l'altro, che è poi l'operazione che fa il bullo, cioè fa del male a un'altra persona in modo cronico, sistematico, produce una sofferenza incredibile ed è quasi come se neanche se ne rendesse conto, cioè non riuscisse a sentire davvero il peso, il dolore, la fatica che genera nella mente della persona che da lui viene vittimizzata. Il cyberbullismo, Alberto, viene spesso definito la variante 2.0 del bullismo, il bullismo elettronico anche. In realtà però ci sono delle differenze, perché quando il bullo o la bulla si trasferisce in rete, le dinamiche cambiano e per la vittima la vita diventa un inferno da cui sembra non esserci più scampo, perché ti segue ovunque. Sì, nel cyberbullismo per esempio il bullo può già perdere la sua identità, si può agire sotto forma di anonimato e di conseguenza questo riduce ulteriormente i freni inibitori che una persona magari mette in azione nel reale. Tra l'altro può essere che con tutti i social, dove tutti fanno un po' tutto, si pensi ai gruppi WhatsApp dei nostri figli, alcune persone vengono poi prese di mira e si trovano di fronte non un singolo soggetto che le vittimizza, ma un intero sistema che in qualche modo utilizza quella persona da capro espiatorio, spesso anche semplicemente per raccontare, no? La paura della diversità che spesso i ragazzi hanno nel loro percorso di crescita, e proprio per evitare di essere loro i diversi, tutti puntano il dito contro una persona che è identificata come la vittima sacrificale, e accanirsi su di lei diventa un po' anche autoprotezione nei propri confronti. Se tutti si concentrano sull'altro, allora io non sperimenterò mai l'emozione della vergogna, perché sarò meno attenzionato in quanto stanno già attenzionando un'altra persona. È chiaro che in tutto questo c'è una grande diseducazione emotiva dei nostri figli e spesso c'è un po' anche l'assenza di un progetto educativo da parte degli adulti, che si devono invece rendere responsabili di un percorso dove appunto le cosiddette life skills, competenze di vita, il pensiero critico, l'empatia, l'ascolto efficace, la corresponsabilità verso l'altro sono dimensioni fondamentali. Allora, 800 24 00 24, se siamo genitori, abbiamo figli in età scolare, se siamo stati dei bulli o in qualche modo siamo state vittima del bullismo, microfoni aperti per le vostre richieste, per il racconto delle vostre esperienze. Alberto, a proposito, tu sei a Roma tra i relatori di un evento che si apre tra poco, organizzato proprio in occasione del Safer Internet Day, questa giornata proprio per la promozione di un uso più sicuro del web, e verranno presentati anche dei dati molto interessanti che analizzano le attitudini e le percezioni degli adolescenti e degli adulti rispetto all'educazione civica digitale e alla sicurezza online. Leggevo oggi sul giornale dati di Telefono Azzurro che registrano che in Italia c'è almeno un caso al giorno di bullismo, cyberbullismo a scuola, e che per 8 ragazzi su 10 non è grave lanciare insulti sulla rete. Abbiamo perso un po' i parametri, Alberto. Sì, io credo che è un po' anche la natura del nostro stesso agire nell'online, è come se si desensibilizzassero i nostri sensori emotivi. Se tu hai davanti una persona nella vita reale, effettivamente le puoi fare del male o le puoi dire del male, ma dentro di te agiscono e continuano ad agire dei freni inibitori, per cui c'è molta più capacità di autoregolarsi e di limitare il danno che si può produrre a qualcuno. Stando invece seduti nella propria stanza con un cellulare in mano e una persona che invece è solo immaginata perché non è lì in presenza, effettivamente queste attività diventano molto più frequenti, e tra l'altro i ragazzi molto spesso le fanno con l'idea di non fare niente di grave, perché pensano un po' ad uno scherzo. Certo. È frequentissimo sentire che qualcuno dice ma noi volevamo fare solo uno scherzo, quando in realtà quella frase dentro alla mente di un ragazzo o di una ragazza diventa una sorta di cristallo impossibile da togliere, perché si identifica completamente con l'offesa di cui è stato reso oggetto. Le persone che hanno una vulnerabilità specifica, una sensibilità specifica, un tredicenne che si sta in qualche modo osservando da fuori, che vede magari una fatica nel suo percorso di crescita e che quindi sta soffrendo per quella, quando se la vede raccontata e se la vede puntata col dito da un amico, da un'amica, da un compagno, da una compagna nel gruppo WhatsApp, amplifica enormemente l'esperienza di sofferenza che sta sperimentando. Allora Alberto, intanto voglio leggervi due messaggi. Uno è arrivato, sono tutte e due arrivate al 349-238-6666, uno via WhatsApp, uno SMS. Tony ci scrive: ma è semplice, bisogna che i bambini, i ragazzi reagiscano. Io e mio fratello dei bulli ce la siamo sempre cavati, e poi crescendo non ci hanno più rotto le cosiddette. E quindi Tony, questa è la ricetta di Tony, che è un po' per certi versi simile a quella che ci dà anche Marco, che dice che c'è bisogno del servizio di leva, con un po' di sano nonnismo per questi giovani. Devono imparare rispetto per gli anziani, per la gerarchia, disciplina e autonomia. Questi sono due messaggi che sono arrivati prima delle informazioni sul traffico. Vi aspettiamo subito dopo. Cuore e denari. Perché i ragazzi sembrano incapaci di regolare la loro violenza e prepotenza nelle relazioni tra pari? Perché un compagno smette di essere un amico e diventa una vittima? Perché alcuni ragazzi stanno male alla sola idea di passare la soglia della scuola e vivono con angoscia l'ingresso in questo luogo che dovrebbe invece far sentire tutti protetti e al sicuro? Siamo tornati insieme in occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo nelle scuole, il Safer Internet Day, la giornata per la promozione di un uso più sicuro del web. Parliamo di bullismo e di cyberbullismo insieme ad Alberto Pellai, che è in linea con noi. Alberto? Eccomi qua. Credo che sia proprio anche importante sentire che viene in una giornata specifica creata un'attenzione specifica su questo tema, non perché oggi ce ne preoccupiamo e poi non ce ne preoccupiamo più, ma in realtà perché oggi in realtà si può davvero approfondire un tema e soprattutto provare a pensare quali sono quei progetti, quei passi di prevenzione, quelle azioni concrete che poi durano tutto un anno e alla prossima giornata contro il bullismo ci fanno dire: abbiamo ottenuto dei risultati, siamo riusciti a fare davvero prevenzione. Ma allora siamo concreti, cosa può fare la scuola, cosa possiamo fare noi genitori, che spesso siamo gli ultimi a sapere, perché spesso siamo tenuti all'oscuro da nostro figlio che ha vergogna a confessarci di essere finiti in una trappola, di essere preso in giro, ma che anche per primi facciamo fatica a credere che sia proprio il nostro bambino così carino da accanirsi su quel compagno, a essersi trasformato in un bullo, in un cyberbullo sotto i nostri occhi, senza che noi potessimo accorgerci di tutto questo cambiamento. Alberto, qua è importante anche lavorare e individuare dei segnali che possono aiutare anche i genitori, e poi naturalmente passeremo alla scuola, ad aprire un po' gli occhi, a proteggere, ma anche a individuare dei segnali di pericolo. Allora, i segnali di pericolo, tra l'altro, sono spesso molto evidenti, anche se camuffati, cioè un ragazzo o un bambino o una bambina cominciano ad avere serie difficoltà ad andare a scuola al mattino, aumentano all'infinito i riti per stazionare il più possibile dentro casa, rivelano una sofferenza significativa all'idea di entrare a scuola, magari fingono anche delle malattie, e quello che colpisce il genitore è che tutto è avvenuto un po' all'improvviso, cioè stava andando tutto bene, improvvisamente cominciano questi comportamenti di resistenza all'ingresso a scuola. Ecco, questo è davvero un campanello d'allarme, dove il consiglio principale è prima di tutto verificare con i docenti del bambino, della bambina, del ragazzo, della ragazza, perché spesso la vergogna, il senso di impotenza è così forte che un figlio non riesce a chiedere aiuto ai genitori, soprattutto per esempio nella fase della preadolescenza. Dobbiamo anche fare attenzione che spesso il messaggio, che era un po' simile a quell'SMS che è arrivato, no? Cioè devi imparare a difenderti, devi fare da solo. Se te le dicono, tu gliele dici più forte. Se te le danno, tu gliele dai più forte. Ecco, non funziona così all'interno del contesto di vita dei nostri figli. Cioè spesso quel genere di quando mi attaccano io contrattacco più forte, ecco, vale in alcuni contesti, ma spesso non vale a scuola. La scuola non deve essere una trincea, un campo di guerra in cui il concetto è che vince il più forte. La scuola deve essere un luogo dove si coopera e dove in realtà non è il problema del bullismo, non è solo tra bullo e vittima, ma è all'interno del contesto allargato, la classe che osserva una corresponsabilità incredibile. Certo, quindi... arriviamo anche agli spettatori, ma Alberto, vorrei lasciare lo spazio anche agli ascoltatori per commentare un po'. Li abbiamo invitati a intervenire, abbiamo Giuseppe da Torino. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Ci racconti? Ma niente, ho sentito i numeri durante la trasmissione del 50% di bambini o comunque ragazzini in qualche modo toccati dal problema del bullismo. Allora sono quasi sentito in obbligo di intervenire, perché vuol dire che c'è un problema sociale, nel senso che questa generazione, è vero, forse si esagera quando si dice che non è capace a difendersi, però è anche vero forse che i genitori intervengono troppo nella vita degli adolescenti. E li intervengono anche nel momento in cui hanno un minimo problema nella loro difesa. Certo, bene, perché nel male. Sì, è vero, perché se il problema non ci tocca da vicino, ne parliamo, ma se non ci tocca da vicino, non riguarda direttamente il nostro figlio, queste, come anticipava anche un po' Alberto, restano un po' solo parole, no? Tendiamo a rimanere spettatori, commentatori e nulla di più. E sugli spettatori spesso anche i ragazzi rimangono, fanno un passo indietro, non partecipano al gruppo, agli amici del bullo, ma si chiamano un pochino fuori. Alberto, anche questo è un aspetto che va sottolineato. Sì, in generale il bullismo si verifica più frequentemente in quegli ambiti di gruppo ed educativi dove il valore principale è la competizione, quindi si devono conquistare spazi di potere, si deve conquistare il primo posto, e nel momento in cui facciamo così, la dimensione che invece devalorizziamo, depotenziamo è quella della cooperazione. Proprio avere degli spettatori che guardano e non fanno niente è frequente nelle zone dove c'è tanta competizione. Certo. Avere delle persone che invece si coinvolgono nel problema di un altro e sentono di potersi giocare un ruolo avviene nei contesti in cui è stato costruito il principio e sostenuta la dimensione della cooperazione. Ecco, sono quelli, ho letto un articolo, sono gli anticorpi, questi sono gli anticorpi sociali che dovrebbero attivarsi. Intanto voglio salutare Amalia di Radio Immaginaria. Ciao Amalia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, è ritornata a trovarci perché ci sei piaciuta molto, sei un po' la voce dei nostri ragazzi. Tu hai avuto esperienza diretta o indiretta di episodi di bullismo, di cyberbullismo? Sei stata? Sì, sì. Entrambe le cose. Io più che aver avuto esperienza di atti diretti di bullismo, ho sperimentato specie quando ero all'elementare o alle medie queste forme un pochino di esclusione, in cui magari c'è un gruppo di compagni di classe che decidono chi è che gioca quel giorno e chi è che no. Quindi, insomma, io più che diretti atti di bullismo mi è capitato più di provare questa forma di esclusione. Però, come dicevamo prima, non è necessario, secondo me, per parlare di bullismo avere per forza qualcuno che si fa del male, ma ci sono anche delle piccole cose come anche un'esclusione che possono rimanere, quello che dicevamo prima, cioè dicevate prima, delle cicatrici che rimangono, dipende tanto anche dai caratteri. Ci sono delle microaggressioni, secondo me, che non devono per forza terminare in atti tragici, come purtroppo leggiamo e scopriamo ogni giorno di ragazzi che decidono di mettere fine alla propria vita per questo tipo di atti. Ma secondo me si può parlare, si deve parlare anche di bullismo in quelle piccole cose quotidiane che a un occhio di magari qualcuno di più grande possono non sembrare niente, ma piccoli scherzi che iniziano un pochino in maniera divertente e alla fine dei quali uno si sente proprio emarginato. Senti, come Radio Immaginaria che cosa state organizzando? Quali allora, progetti state seguendo? Allora, la giornata contro il bullismo per noi è estremamente importante, noi ne parliamo molto spesso e avevamo iniziato con Radio 24 questo bellissimo progetto che si chiama Caccia Bulli, in cui sia per ragazzi della nostra età, della mia età, sono anche vostra certo, che hanno subito episodi di bullismo o che proprio li hanno fatti, raccontavano via radio la propria esperienza, Oggi noi siamo a Milano in questo progetto, che c'è, cioè in questa iniziativa che si chiama Felici di navigare la rete contro il bullismo, che è un convegno internazionale su questi due temi di cyber, bullismo e bullismo, in cui ci sono tavoli di confronto. Noi facciamo servizi e interviste a Roma, c'è una rete migliore all'ex caserma Guido Reni, e noi faremo diretta, ci saranno dibattiti e laboratori. Oggi pomeriggio intervisteremo la senatrice Elena Ferrara, e anche a Torino c'è un evento in Piazza San Carlo con un flash mob, tanti ragazzi, tante scuole. Bello il flash mob torinese, mi piace. Stai con noi, Amalia, ritorniamo subito dopo insieme anche ad Alberto Pellaia, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica, prezzi super, qualità iper. Miau. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati insieme. In linea con noi abbiamo Alberto Pellai, Amalia di Radio Immaginaria. Stiamo parlando di bullismo e di cyberbullismo e dell'importanza di adottare un po' di attenzione quando i nostri ragazzi, anche noi stessi, navighiamo e andiamo, ci esponiamo alla rete. Amalia, hai dato due appuntamenti importanti di Radio Immaginaria in occasione di questa giornata che ci sta particolarmente a cuore, segno che esatto. Il vostro siete proprio in prima linea, giovani che parlano ai giovani. Vuoi darci un altro appuntamento? Sì, io vi consiglio di ascoltare un contenuto che abbiamo preparato oggi che si chiama Il Pizzone, che è una mega puntata fatta da tanti piccoli interventi, perché Radio Immaginaria è un po' in tutto il mondo e abbiamo queste testimonianze in lingue straniere e in italiano di ragazzi che in due minuti provano a dire la loro sul bullismo, da qualunque parte si fossero messi, bulli, bullizzati, testimoni o semplicemente voler contribuire, insomma, in questa giornata, a dire qualcosa per chiunque voglia ascoltare. Grazie Amalia. A voi. Noi mettiamo naturalmente a disposizione il nostro numero verde all'800240024. Alberto, tantissimi messaggi arrivano via WhatsApp. Abbiamo analizzato il problema della vittima, abbiamo sottolineato quanto il gruppo possa fare la differenza, e quindi non rimaniamo spettatori, attiviamoci, educhiamo anche i nostri figli a partecipare. Ma vorrei sottolineare un messaggio che mi è arrivato e secondo me è uno spunto di riflessione importante. Lo so che è scomodo da dire, ci scrive un ascoltatore, ma anche il bullo è vittima, ti spingono a fare il bullo con le loro risate, loro godono e non si sporcano le mani. Alberto, anche il bullo spesso è... Che cosa capita nella testa del bullo? Tu, nel tuo libro L'età dello tsunami, che tra l'altro è in cima alle classifiche di vendita, racconti che cosa succede nella preadolescenza, in un cervello in piena evoluzione che funziona un po' in modo diverso rispetto a quello di un adulto. È uno tsunami simile a quello che trasforma il nostro bambino in un bullo. Le neuroscienze che cosa ci dicono? Ma che il bullo entra in realtà nel copione, dove per acquisire un ruolo e uno status all'interno del gruppo utilizza la potenza prepotente e in qualche modo comincia a essere temuto da tutti gli altri. Vai alla ricerca di uno status relazionale e in realtà lo riceve però attraverso l'emozione della paura e del terrore. Gli altri gli lasciano quel podio, ma in realtà non lo amano. Alla fine è effettivamente solo perché non riesce a costruire intimità e connessione profonda con nessuno. Di nuovo qua è molto importante il ruolo del gruppo, perché quel copione funziona per il bullo nel momento in cui il gruppo glielo lascia, il gruppo in qualche modo glielo mantiene inalterato. Se il gruppo invece manda in... Alberto se n'è andato, è caduto. Intanto io chiedo a Carmelo di mandare l'estratto da cui vogliamo partire. Cara Blu, come stai? Qui oggi il meteo segnala un giorno di merda esattamente come tutti gli altri. Merda piatta, merda costante, merda continua e ugualmente spalmata su tutte le 24 ore della giornata. Quando avevi 16 anni, ogni giorno sembrava uguale a tutti gli altri. Forse adesso che leggi ti sembrerà impossibile, ma 25 anni fa era così. Alla fine dei conti era sempre tutto uguale. Birth. Allora, quello che abbiamo appena ascoltato è un breve lancio di un film che è al centro della propria storia, una situazione di bullismo, anzi una serie di situazioni di bullismo. Bullismo che nasce nella vita reale, ma che prosegue poi anche nel mondo online, con una complessità molto difficile da gestire. Il film, dopo un grande successo di pubblico al cinema, è ora su DVD, e il suo regista, Ivan Cotroneo, è in linea con noi. Ciao Ivan, grazie per essere con noi. Allora, Ivan, un film che parla di ragazzi e ragazze, ai ragazzi e alle ragazze, un film importante in questa prima giornata contro il bullismo. Perché è importante che anche il cinema racconti storie come quella del tuo film, e soprattutto che cosa ti hanno detto e scritto gli adolescenti dopo averlo visto? Ma io credo molto nel potere delle storie, credo che in una situazione difficile come quella che i ragazzi stanno vivendo, potersi immedesimare nelle storie attraverso dei personaggi, attraverso il loro racconto, quindi empatizzare, ridere e piangere con loro sia molto utile per far partire una discussione. Questo film ha avuto una storia molto particolare, perché è uscito in sala quasi un anno fa, il 31 marzo, ma noi abbiamo cominciato a farlo vedere ai ragazzi da prima, organizzando un tour con proiezioni al cinema ma con le scuole, e poi queste proiezioni sono continuate nel corso dell'anno. Io ho incontrato tantissimi ragazzi, più di 30.000, e abbiamo discusso dei temi del film, e devo dire che io ho trovato dei ragazzi molto disponibili a raccontare le loro storie, molto disponibili, molto responsabili anche, molto vero quello che si diceva prima a proposito del ruolo del gruppo, a proposito dei testimoni, perché in queste storie non esistono testimoni innocenti, chi non interviene è complice in qualche modo di quello che succede. Ecco, questo è un messaggio che dovremmo far passare ai nostri figli, che è dalla tua storia, da quanto ci racconti. Tra l'altro il tuo film è entrato in un progetto promosso dal Ministero, Ivan, significa che i ragazzi rispondono molto bene alle proposte di prevenzione, e allora sarebbe utile investire sempre di più in questo canale. Ivan? Secondo me sì, perché i ragazzi sono stanchi e penso che dovrebbero essere aiutati e sostenuti sia nel percorso che loro stanno conducendo, quindi essere sensibili a quello che succede negli anni della loro adolescenza all'interno dei gruppi, all'interno delle scuole, però anche presentargli come modello una società più inclusiva, perché il vero problema di questi ragazzi è che gli schemi che subiscono, le discriminazioni che vengono alla luce in quegli anni, che sono appunto l'oggetto del bullismo, loro le ritrovano nella società degli adulti. Il ruolo della donna, discriminazioni per chi ha un orientamento sessuale minoritario. Noi non possiamo dire a questi ragazzi che queste discriminazioni esistono solo all'interno delle scuole e solo per soggetti adolescenti, perché loro le ritrovano nella società degli adulti. Io credo che contemporaneamente un lavoro nelle scuole, nei luoghi e con i ragazzi bisognerebbe anche adoperarsi per presentare loro una società più inclusiva in cui questi schemi, per cui loro non si sentono mai abbastanza, siano un po' scardinati. Ivan, è più facile parlare ai ragazzi che agli adulti? I ragazzi sono più liberi, sono contemporaneamente gravati da appunto tutto quello che gli sta intorno, ma anche molto stanchi, forse perché più di tutti si rendono conto della gravità di questo fenomeno che li coinvolge tutti. Secondo le ultime ricerche, un ragazzo su cinque nel corso della sua storia scolastica è toccato dal bullismo direttamente, e gli altri quattro probabilmente hanno assistito a quello che succedeva. Il film nasce poi proprio da questo, perché io ho scritto un libro prima ed ero andato nelle scuole a parlare con i ragazzi e le ragazze. Senti, quanto ti hanno cambiato e come ti hanno aiutato e stimolato questi incontri con i ragazzi? In fondo i ragazzi sono straordinari e lasciano un segno a chi lo sa cogliere, ci rendono migliori, se sì, riusciamo ad ascoltarli. È molto difficile da raccontare senza risultare retorico, però questo ormai anno di incontri, di giri nelle scuole, insomma, mi ha arricchito moltissimo. Io spero di essere riuscito a restituire a loro una parte di quello che loro mi hanno dato, che è stato tantissimo. Mi hanno regalato soprattutto moltissima fiducia e la convinzione, cosa che già sospettavo sono stato nelle scuole prima ancora del film, la convinzione che questi ragazzi come generazione sono molto più attivi, appassionati, capaci di impegno di come solitamente vengono raccontati. Salutiamo Ivan Cotroneo ringraziandolo per essere stato con noi. Grazie, grazie anche per le storie. E noi vi invitiamo naturalmente, se avete bisogno di una mano, se volete raccontare una vostra storia, di scriverci a cuoredenari@radio24.it. Noi siamo qui per evitare che la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo rimanga solo una giornata. Insomma, attiviamoci. D'altra parte, io credo spesso, credo nella genitorialità sociale. Siamo tutti un po' genitori di questi ragazzi che saranno il nostro futuro. Debora. Ah, siamo pronti a partire con la pagina di denari? Certo, 11:18. Poi ho visto il tuo ospite. No, oggi tra l'altro straordinariamente elegante. Esatto, infatti. E anche sorridente. Chissà se ci saluterà. Non diciamo chi è, facciamogli solo fare un saluto. Buongiorno agli ascoltatori. Ecco, magari se Carmelo ci accende il microfono è utile. Sì. Buongiorno agli ascoltatori. Nicola Borzi, chiedo scusa. No, tangenziale, l'avete detto prima, no, su Strade 24. No. Ma guarda che sei puntuale, non ti devi assolutamente giustificare. Guarda, no, abbiamo idea, le siamo a Milano per pure vedere noi. Un tir che tampona un altro, cioè sono guarda, cose no che voi umani non potete neanche lontanamente immaginare. Poi. Esatto. Partiamo. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone. Allora, perché abbiamo scomodato questa mattina Roma Capoccia? Perché andiamo nella capitale. Come sapete, da qualche giorno è scoppiato il nuovo caso che vede come protagonista il sindaco Virginia Raggi al centro di questa curiosa e misteriosa vicenda di polizze e vita sottoscritte dal suo ex capo di segreteria Salvatore Romeo e delle quali Raggi era indicata come beneficiaria. Una vicenda su cui indaga la magistratura, sulla quale noi abbiamo voluto fare un approfondimento che non avrà nessun tipo di connotato politico, lo diciamo Nicoletta perché a noi proprio non interessa, perché sennò arrivano, anzi guarda, facciamo gli auguri al sindaco Raggi che possa lavorare e che si possa mettere alla prova sul campo su altre questioni appunto di carattere politico amministrativo, ma magari un po' meno giudiziario. Detto questo, a noi cosa interessa capire stamattina, spinti anche da molti messaggi che ci sono pervenuti per semplice curiosità da parte di qualche ascoltatore, appunto alcuni di questi ci hanno chiesto di spiegare che non è che si tratti di prassi anomala, ma anzi ricorrentemente nonni che lo fanno per i nipoti ad esempio, può capitare che qualcuno sottoscriva una polizza a favore di qualcun altro. Adesso Nicola mi stava guardando un po' sorpreso, dice ma chissà dove vuole andare a parare. No, in realtà come strumento di risparmio e di investimento in realtà conosciamo appunto questa modalità. Allora noi oggi vorremmo provare a spiegare che in effetti potremmo ritrovarci ad essere beneficiari di strumenti assicurativi sottoscritti da qualcun altro, ma quando questa circostanza può verificarsi, quando il beneficiario non dovrebbe, per ragioni di opportunità, essere invece messo al corrente. Vi è capitato di diventare eredi di qualche forma di tutela assicurativa e come avete gestito questa situazione? Se volete ci potete scrivere al 349-238-6666 o chiamare all'800-24-0024. Insieme a Nicola Borzi, coordinatore di Plus 24 del Sole 24 Ore, c'è con noi anche il professor Marco Agugliari, già professore a contratto in diritto delle assicurazioni e responsabilità civile, funzionario responsabile settore contenzioso di un grande gruppo assicurativo che è Groupama, e io lo ringrazio per essere di nuovo con noi. Buongiorno professor Agugliari e ben ritrovato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debora, grazie a voi di essere qui con me. Eccoci qua. Allora, parliamo di polizze vita il cui capitale viene liquidato al beneficiario solo al verificarsi di certe condizioni, particolarmente morte del contraente. Allora, la prima considerazione da fare, parto con lei professor Agugliari, è che in genere quando parliamo di questi strumenti di assicurazione abbiamo a che fare con una tipologia di contratto assicurativo attorno alla quale ruotano tre figure. Spieghiamo. Le faccio fare il professore subito stamattina. Cerchiamo di essere estremamente chiari, non entrare troppo sul giuridico, perché credo i nostri ascoltatori abbiano proprio desiderio di capire qualche cosa in più. Sì, già quando li invitiamo a leggersi i contratti di queste assicurazioni, deve intervenire Nicoletta per fare la cura dell'orticaria, per dar loro la cura. Sicuramente, tanto che insomma sono stati attenzionati dai mass media, insomma, sia i contratti assicurativi e bancari, proprio per quelle clausolette scritte così in piccolo e spesso insomma tendenziose sul risultato finale. Diciamo che sostanzialmente appunto nel contratto di assicurazione, in particolare ora stiamo parlando di polizze vita, dobbiamo identificare in effetti tre soggetti che possono essere tra di loro diciamo poi raggruppati in un unico elemento fisico oppure essere differenziati. Le parole ci aiutano anche a capire chi sono, il contraente, il primo soggetto è colui che contrae, che paga il premio, quello che si obbliga nei confronti della compagnia. Che stipula formalmente il contratto di assicurazione. Quello che stipula il contratto, quello che assume l'onere nei confronti dell'assicurazione appunto di portare a termine quell'obbligo giuridico stipulato appunto regolato dal contratto. L'assicurato, altro soggetto, secondo quindi. È colui intorno, possiamo dire, che intorno al quale ruota l'alea assicurativa. Nel caso di specie, parlando di polizze vita, vedremo la vita o la morte in qualche modo, cioè scommettiamo qualcosa inerente al lasso di vita che mi rimane o comunque un periodo della mia vita, oppure il fatto che la morte, caso comunque certo, futuro ma certo, sull'incertezza di quando avverrà questa morte scommette l'assicurazione. Terzo e appunto discusso poi soggetto è il beneficiario, che può essere un soggetto appunto terzo a tutti gli effetti, ossia estraneo al rapporto iniziale che vede appunto il contraente, l'assicurato, iniziare appunto un rapporto contrattuale con l'assicurazione. È colui che, lo dice il termine, beneficerà di quello che prevede il contratto. Diverse sono le ipotesi. Esatto, perché queste figure, come lei diceva prima, possono in certe circostanze coincidere oppure essere tre persone completamente diverse tra di loro. Quali sono le combinazioni possibili? Facciamo qualche esempio per essere molto pratico. Vi posso riportare l'esempio più classico, no? Che è quello del padre di famiglia. Mettiamo io stesso, dipendente o funzionario di un'assicurazione, desidero che in caso di mia dipartita i miei eredi legittimi siano beneficiari di una somma X. Questa somma sarà corrisposta se in un termine Y, diciamo di qui a 10 anni, io pago ogni anno un premio di poche lire, 200-300 euro. E stabilisco che se in questo periodo, quindi scommetto con l'assicurazione, che se entro questo periodo morirò, tu assicurazione corrisponderai ai miei eredi un certo capitale, certo. Y. Diversamente, quindi lei è in questo caso contraente e assicurato? In questo caso ma esattamente non è beneficiario, sono il contraente e l'assicurato. Infatti dicevo, l'assicurato ruota intorno a me l'alea assicurativa. Il fatto che io sia in vita a scadenza comporterà che io avrò perso tutti i premi, cioè che li avrò versati per nulla, per scaramanzia in qualche modo, e l'assicurazione avrà scommesso sul fatto appunto che io alla tale data sarò ancora in vita. Diversamente, caso fortuito vuole che io manchi, l'assicurazione dovrà pagare ai miei eredi, i beneficiari, in questo caso che io identificherò ex ante, cioè al momento della stipula del contratto, dovrò identificare e dire chi sono. Posso genericamente usare la formula eredi legittimi o testamentari, od anche indicare un terzo soggetto, anche estraneo al rapporto familiare, però lo devo identificare. Ovviamente, se parlerò del signor Paolo Rossi, in ipotesi, dovrò dire che Paolo Rossi è proprio quel Paolo Rossi che io ho voluto identificare. Quindi solitamente si richiede, questo poi la diligenza dell'assicurazione stessa, anche in rispetto, e senza andare troppo nel dettaglio, di un regolamento IVAS che è stato recentemente novellato nel 2014, che vuole determinate cautele sull'identificazione dei beneficiari. Guardi, lei non ci crederà, ma Nicola Borzi si è portato questa lieta novella che lei ha citato poco fa, e adesso magari ce ne racconterà anche qualche dettaglio. Sono documenti sempre molto complessi e articolati, infatti, però magari negli aspetti, nei principi fondamentali. Il beneficiario è bene che sia identificato quantomeno con un documento. La prassi in questo prima tipologia di polizza vita, identificata come polizza vita a caso morte, temporanea a caso morte, si scommette appunto, come dicevo, sulla morte, che il beneficiario sia identificato. Però l'identificazione, io la interrompo subito a Gugliari, perché l'identificazione non comporta che il beneficiario sia a conoscenza del fatto che questa polizza è stata stipulata a suo favore. Allora, le confermo questa cosa e soprattutto gliela confermo... che non è una precisazione che vuole andare a difendere l'eventuale considerazione relativa al sindaco. Sì. Ora, in realtà, e ripeto, poi il collega andrà anche ancora più nello specifico, in realtà il regolamento IVAS che appunto è intervenuto proprio per far sì che le somme transitate attraverso un contratto di polizza vita siano facilmente tracciabili, per così dire, nel loro trasferimento da un soggetto a un terzo soggetto, siano facilmente poi identificabili dove sono andate e a chi. Il beneficiario nel regolamento IVAS dice che dovrebbe essere identificato in presenza da parte dell'ente sottoscrittore, quindi l'assicurazione. Cioè io dovrei dare davanti all'assicurazione nome e cognome, ma anche presentare sostanzialmente la persona, questo lo dice l'articolo 9-10 del regolamento IVA, salvo che articolo 21, se non ricordo male, il contratto venga stipulato a distanza. A questo punto le cautele sono minori e si scivola, ripeto, in una prassi, come dicevo prima, che fa sì che il terzo beneficiario spesso possa essere anche semplicemente identificato con un mero documento fornito, esatto, dal contraente. È ovvio, se sono mamma e papà che fanno una polizza per il proprio figlio, è chiaro che dispongono di questo documento facilmente senza che il figlio sappia nulla. Poi ci sono varie considerazioni ancora da fare. Chiedo sintesi a Guiari perché devo andare in pausa. Quindi... Sintesi, allora pausa, questa è la prima tipologia classica, ripeto, di polizza vita. Altra tipologia invece scommettiamo sul fatto di essere ancora in vita a un certo periodo e quindi io faccio sostanzialmente più un prodotto finanziario. Ecco, e lì si apre un altro tipo di situazione. La spieghiamo dopo le 11, dopo le 11.30, adesso devo andare ad aggiornare i nostri ascoltatori sui mercati, devo sentire anche Nicola che in realtà ha scritto sul Sole 24 Ore su questa vicenda ma toccando anche altri aspetti, ha scritto qualche commento appunto da qualche parte anche su altri aspetti e ci sono anche due ascoltatori pronti ad intervenire, sono Raffaello dalla Spezia, Samuele da Monza e la borsa e torniamo tra pochissimo. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Cuore e denari. 3 per 5, 25, 6 per 3, 33, 2 per 8, 48. Diamo un po' i numeri come spesso ci capita di fare qui a Cuore e Denari. Per la parte di denari stiamo parlando di assicurazioni nel nostro approfondimento appunto di carattere economico-finanziario. Questa mattina abbiamo ripreso spunto per l'ennesima volta, l'abbiamo fatto anche noi dal caso di Virginia Raggi, le polizze sottoscritte a sua insaputa, indicata come beneficiari appunto da in questi strumenti di tutela assicurativa sottoscritti dal capo della sua segreteria. Detto questo, senza soffermarci ovviamente sul caso romano che non ci interessa, quello che vogliamo capire è se effettivamente è una circostanza che si può verificare. Sì, l'abbiamo spiegato con molta chiarezza. Quali sono un po' le anomalie di queste situazioni? Peraltro stamattina c'è anche una ricerca pubblicata da facile.it su un campione di 85.000 utenti unici che fanno delle ricerche su questo portale. Sembra che nel 2016 la ricerca di coperture assicurative a tutela della casa sia aumentata del 18% con un picco del 52% subito dopo i fatti di Amatrice. Proteggere la propria abitazione contro i rischi naturali naturalmente è come dire una circostanza che produciamo per conto nostro, ovviamente è difficile che qualcuno possa sottoscrivere una polizza per noi di questo tipo, insomma mi piaceva ricordare anche questo dato anche per continuare a mantenere i riflettori sotto sulla difficilissima situazione che stanno vivendo ancora queste popolazioni. Allora Nicola Borzi, Plus 24, il Sole 24 Ore, tu nei giorni scorsi con tutta una serie di commenti che hai rilasciato anche sui social, ti sei soffermato sul fatto, in particolare, adesso lo vado a riprendere, che la polizza può essere sottoscritta a beneficio di qualcuno che non lo sa, come pegno per ottenere dell'altro. Ci spieghi un po' meglio. Sì, esistono tutta una pluralità di soggetti bancari che offrono il cosiddetto contratto di pegno su polizza. In realtà però questo contratto di pegno su polizza, che consente nella presentazione a queste banche della polizza come titolo posto a garanzia di una somma di denaro che viene corrisposta appunto come pegno. Quindi credo che ne so, un fido ad una banca e la banca per concedermelo in cambio invece dell'obbligazione subordinata mi chiede di fare un pegno. Il pegno, ecco. Mi chiede un pegno, io magari non ho altri titoli da portare, porto la polizza, però il pegno su polizza mi è stato poi spiegato, perché questa discussione su Facebook si è fatta animata e ha coinvolto parecchi soggetti, tra cui alcuni che sono dei veri specialisti, cioè bancari e assicuratori. Il pegno su polizza viene erogato soltanto al cliente della polizza, non al beneficiario. Al beneficiario. Quindi al contraente, esatto. Per utilizzare i termini corretti. E questa è una delle questioni. L'altra questione riguarda invece un aspetto che io ho sottolineato, che è la questione relativa alla adeguata verifica della identificazione dei tre soggetti che sono, diciamo, così coinvolti nel contratto assicurativo, che è stabilita da questo regolamento IVAS del 21 luglio 2014. Quindi contraente, assicurato, beneficiario. Esatto. Che precisazioni ulteriori dobbiamo fare? Allora, qui la questione è molto semplice. Si tratta di un obbligo che è posto in capo ai soggetti che erogano polizze, cioè alle compagnie e ai loro agenti, ai fini antiriciclaggio. Quindi devono sapere quanto di tutte e tre le figure. Devono avere tutta una serie di informazioni, e questa serie di informazioni deve essere acquisita non una volta per sempre, ma in cosiddetta maniera dinamica, cioè devono essere verificate periodicamente e aggiornate nel caso di contratti continuativi, certo. Ad esempio quelli dove il premio non è pagato una volta sola, ma viene certo. Corrisposto a rate insomma, ad esempio, certo, annuali. Nei premi differenziati. Esatto, qui la questione è Ma questa, peraltro, scusami, ti interrompo, è una questione anche importante, perché ammettendo, nel caso più nobile del quale stiamo parlando, la nonna che contrae una polizza e indica come beneficiario il nipote, perché queste informazioni devono essere periodicamente aggiornate? Se la nonna viene a mancare, chi paga appunto i premi? Cioè, voglio dire, ci sono anche delle situazioni di carattere personale che si possono verificare, quindi è chiaro che la compagnia deve saperlo, no? Deve saperlo, perché deve essere, come diceva il nostro interlocutore precedente, tracciabile la fonte del denaro, perché si sono verificati in passato casi di situazioni nelle quali le polizze assicurative sono state utilizzate come strumenti di riciclaggio. Oppure banalmente diventano dormienti se nessuno sa più che fine fanno, c'è anche tutto questo aspetto sul quale abbiamo fatto. Però non è questo che rileva ai fini del regolamento IVAS. Ai fini del regolamento IVAS la cosa importante è la cosiddetta adeguata verifica, che non riguarda soltanto i contratti assicurativi, ma riguarda ad esempio tutti i contratti bancari. Che cosa accade in questo caso? La banca, l'assicurazione in questo caso, deve verificare i dati di chi versa il denaro, di chi è il beneficiario e del cosiddetto esecutore, ma soprattutto deve acquisire i documenti di questi soggetti. Soltanto che, come rilevato giustamente da alcuni che hanno poi avuto con me questo dialogo su Facebook, i dati del beneficiario non vengono acquisiti al momento della stipula del contratto, ma al momento in cui, come dice il comma 9 dell'articolo 11, c'è la corresponsione della prestazione assicurativa. Cioè, se si tratta di una polizza assicurativa caso morte, il beneficiario deve essere verificato nella sua identità al momento in cui gli si paga la polizza. E quindi deve esserci coincidenza, naturalmente, fra le informazioni date inizialmente, esatto, al momento della stipula del contratto e al momento in cui la polizza, esatto, c'è un piccolo problema. C'è un piccolo problema, però, che mi è stato sottolineato anche da alcuni clienti di polizze, di alcuni contraenti, per usare la parola corretta, di polizze fatte a distanza. Questi contraenti, ad esempio, hanno stipulato polizze vita caso morte a favore della compagna. E l'hanno stipulate online, quindi a distanza. Per fare questo hanno dovuto seguire tutta una procedura di collegamento web in video, nel quale hanno dovuto mostrare i documenti della compagna, compreso il documento relativo al codice fiscale. Quindi c'è effettivamente una questione, che è quella della disponibilità dei documenti del beneficiario, o comunque anche per via generale, ad esempio, del suo codice fiscale, che deve essere dato alla compagnia, all'agente che stipula anche a distanza il contratto. La questione è che il regolamento IVAS prevederebbe la, diciamo, l'esibizione di un documento in corso di validità. E quindi la domanda che ci si pone, ad esempio, nel caso della sindaca di Roma, che a sua insaputa, lo ripetiamo, è stato stabilito dalla magistratura, era beneficiaria, era come faceva il contraente ad avere un documento o una copia di documento valido. Vabbè, insomma, ci immaginiamo che magari qualche copia del codice fiscale di Virginia Raggi al municipio di Roma circolasse, magari esatto, è più questo è un problema, diciamo, di sicurezza dei documenti del sindaco di Roma e di privacy di tutela. Detto ciò, tra parenti, magari questo è un po' più semplice, che si abbia disponibilità di un documento di un proprio nipote o di un proprio figlio. Adesso, professora Gugliari, la faccio intervenire su questi aspetti, ma anche per ritornare su ciò che avevamo in sospeso, ma ci sono anche molti ascoltatori, allora li ascolto molto volentieri. Raffaello dalla Spezia, buongiorno. Salve, buona giornata signora Nicoletta. Ascolti, secondo me io sono... E la ringrazio. Grazie. Grazie a voi. Mi sente? Sì, la sentiamo. La sente anche Deborah. Allora, lei consideri che io da 24 anni faccio polizze e l'ultima l'ho confezionata per un cliente non più di 10 giorni fa. Sì. In realtà... Quante incombenze? Poche, in realtà, per quello che riguarda il beneficiario, perché la verità pratica è questa. Tu indichi il beneficiario, il nome e il cognome, e non è importante mandare il documento, non è richiesto, non è nemmeno indispensabile segnare il codice fiscale nella proposta di contratto, e il contraente, che talvolta coincide con l'assicurato, come nel caso della polizza emessa... Come abbiamo detto prima, ecco, successivamente può cambiare il beneficiario quando vuole, anche ogni giorno. Certo. Può fare anche in un atto separato che può essere un testamento. E quindi questo significa che per questo motivo una compagnia di assicurazione può essere un po' più light nella richiesta del documento di identificazione del beneficiario. E poi ascolti, io ho confezionato decine di polizze in 24 anni. Mi creda, l'80% degli beneficiari non sa di essere inserita come beneficiario, perché il contraente non vuole che si sappia. Certo Raffaello. E la pratica e anche la normativa, del resto come ha detto anche prima poco fa l'intervenuto tecnico, effettivamente non chiede, adesso il discorso dell'online è un po' particolare, ma nella normalità chiede solo il nome e il cognome come indicazione. Grazie. Poi, Raffaello, resto... grazie Raffaello, devo chiuderla, vorrei sentire altri, ma sento anche il professor Agugliari. Allora, tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, professor Agugliari, che riflessioni le hanno fatto produrre? Abbiamo sentito appunto la parte anche ora dell'ultimo ascoltatore della prassi, cosa accade nella prassi, quello che accennavo anch'io, cioè la consuetudine appunto di definire un beneficiario che può essere, tra l'altro, e questo è un altro aspetto molto importante, può essere modificato ogni momento, salvo che, attenzione, non sia vincolato. È possibile anche che il beneficiario, se fosse una banca, il beneficiario vincolatario non può essere in questo caso modificato salvo consenso dello stesso beneficiario. Questo è quando si accede spesso una polizza di mutuo o quant'altro, è un altro aspetto ancora. Nel caso di specie, parlando della polizza della Raggi, l'importante, e non entrando ovviamente nel merito, è di capire anche di che tipo di polizza si tratta e parlando di beneficiario, ma di che cosa? Si può essere beneficiari di una polizza vita a caso morte, il che vuol dire che la Raggi avrebbe, anzi il contraente avrebbe scommesso, avrebbe destinato delle somme solo in caso della sua morte alla signora Raggi, oppure si parla invece di una Romeo che avrebbe versato una certa somma come capitale. Esatto, perché lì ha fatto il premio unico. Esatto, però anche qui beneficiario di che cosa? Della somma maturata a scadenza quando ancora il contraente fosse rimasto in vita, oppure, e questa è un'ipotesi, qui sempre beneficiario, oppure, e potrebbe essere altro il beneficiario, in caso di morte, in questo caso il beneficiario in caso di morte prima della decorrenza del contratto stesso, in caso di morte il beneficiario sarebbe stato colui che sarebbe stato, se identificato come tale, colui che avrebbe percepito nient'altro che i premi già versati. Quindi parlare di beneficiario senza conoscere esattamente che tipo di polizza è stata contratta da Salvatore Romeo o comunque da signor Rossi è risorta, è abbastanza improprio e ci può portare su strade non corrette. Ci fermiamo, abbiamo il traffico, a tra poco. Cuore e denari. Allora, l'ultima parte della trasmissione è dedicata a quei casi in cui uno strumento assicurativo può essere sottoscritto, contratto ovviamente da un contraente che può essere anche l'assicurato, in favore di un beneficiario, di una terza figura. Naturalmente abbiamo preso spunto dal caso di Roma, del sindaco Raggi, appunto della sindaca Raggi, anche se sindaca non ci piace dirlo, per affrontare un po' a 360 gradi questo argomento. Vedo molti assicuratori che naturalmente ci stanno dando le indicazioni sulla modalità migliore per affrontare questo argomento. Abbiamo sentito la testimonianza proprio poco fa di Raffaello, che ci diceva in realtà hanno un atteggiamento molto spesso abbastanza light, questo non è un giudizio negativo, le assicurazioni che non chiedono molti dettagli relativamente anagrafici e personali appunto sul beneficiario, che anzi in corso d'opera del contratto può essere spesso anche modificato. Detto questo, sentirei anche Samuele da Monza, buongiorno, e poi chiudiamo con Nicola Borsi e Marco Agugliari. Emanuele, Samuele. Sì, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Eccoci. Io volevo fare solo un intervento. Noi abbiamo un'agenzia plurimandataria, siamo Aladia Broker di Monza, sì, e facciamo centinaia di polizze al mese, e quindi bisognerebbe sapere nello specifico, appunto, come diceva prima, che tipo di polizza è. Ci capitano di qualsiasi cosa, gente che lascia i soldi alle amanti, agli amici. Abbiamo capito, insomma, che sono delle prassi ricorrenti, e ci mancherebbe altro, perché nessuno vuole assolutamente mettere in discussione l'importanza, che ne sai che ne abbia fatta una per te. Però il contraente è Nicola che ci mette i soldi, l'assicurato sono io, tu sei la beneficiaria. Detto questo, allora, no, tra l'altro, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, Nicola, allora, secondo te, dal punto di vista giornalistico, chiedo anche un parere tecnico a Marco Agugliari, nel momento in cui si decida di fare un'azione di questo tipo, io sono una zia, voglio fare un'assicurazione per i miei nipoti, in quali casi, ovviamente sono minori, scatterà a un certo punto il momento in cui queste persone debbano essere informate del fatto che sono beneficiarie, no? Dico, ma cioè non c'è neanche secondo te un'indicazione di opportunità? No, teoricamente no, nel senso che ci sono moltissimi che hanno una determinata età o che sono in relazioni di parentela o di altro tipo con altre persone, e che per un motivo o per l'altro le beneficiano di questo tipo di contratto, è vero, sulla però, propria o sulla anche altrui vita. Però, professore Agugliari, cioè, penso al nonno che vuole tutelare i nipoti dal caso di morte di un genitore, il quale non dispone del denaro per stipulare una polizza a favore dei propri figli, e quindi il nonno magari tutela il nipote indicandolo come beneficiario di una polizza stipulata sulla vita del padre o della madre. Mio nonno ha fatto questo versamento 20 anni fa, professor Agugliari, ma non c'è un rischio di caduta in prescrizione anche dello strumento assicurativo, perché tutta la partita delle polizze dormienti poi ci obbligherà a fare un sacco di trasmissioni ancora per ritornare su quel tema lì. Fortunatamente in questo caso il legislatore è intervenuto recentemente nel 2012 modificando l'articolo 2952 del codice civile, che riporta sostanzialmente da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle cosiddette polizze vita dormiente. Ecco. Il decennale c'è ovviamente, ma spetta all'assicurazione notificare al beneficiario. Notificare significa con le dovute formalità anche giuridiche al beneficiario il fatto che appunto. E quindi per questo è importante che l'assicurazione conosca molto bene i dati anche del beneficiario, chiaro, non che prenda solo nome, cognome e tanti indirizzo saluti e quant'altro. Ecco. Vorrei dire a proposito di questo che su Plus in edicola sabato Federica Pezzatti scriverà delle modifiche che stanno intervenendo in funzione delle nuove leggi sul diritto di famiglia, sulle unioni civili. Ah, certo, esatto. Perché ovviamente tutto questo comporterà una serie di ricadute anche dal punto di vista fiscale. Sugli assetti patrimoniali anche da questo punto di vista. Sì, perché nelle edizioni appunto eredi legittimi e testamentari si può appunto aprire anche lì un capitolo giustamente sul nuovo diritto di famiglia, su questo dovremmo dedicarci una trasmissione. Certo. Rifaccio anche a lei, professor Agugliari, la domanda che ho fatto a Nicola. Allora, secondo lei il comportamento più opportuno da tenere nel momento in cui si decide di sottoscrivere una polizza, di rendere beneficiario qualcuno che è magari anche esterno al nostro nucleo familiare, nella fattispecie l'amante, mettiamolo, però insomma, per quanto vogliamo tenere la privacy su questa situazione, qualche cosa questo beneficiario appunto dovrà pur sapere. L'amante è consenziente, la invita inviterei probabilmente a recarsi con me, forse poi potremmo andare a cena insieme, perché gli ho fatto un regalo dall'assicuratore a stipulare insieme a lei lo stesso contratto, quindi in presenza mi consegnerà il documento e sarà anche fisicamente presente al contratto, quindi in questo modo eviterei ogni poi eccezione di sorta successiva. Perché l'assicuratore in quel caso, pur non essendo un pubblico ufficiale, però attesta che la firma in presenza del beneficiario è stata fatta e quindi tale non potrebbe poi essere che lui, quindi questo è quanto. Diversamente, se voglio rimanere generico, posso comunque acquisire, sempre nel limite della correttezza, il documento dal beneficiario o dalla beneficiaria, e lo stesso documento poi consegnarlo al mio assicuratore, confidando talvolta anche in una certa riservatezza sulla motivazione che mi spinge a stipulare, quindi a pagare un premio, a obbligarmi nei suoi confronti, assicuratore, per una somma che poi andrà. Posso dire che questi casi non sono così infrequenti, perché lettere di questo tipo le abbiamo ricevute anche a Plus 24. Esatto. Ci vuoi raccontare qualche altro scheletro nell'armadio di qualche ascoltatore? Diciamo che ci sono situazioni in cui persone che hanno anche patrimoni abbastanza ingenti e li vuole magari sottrarre ad un asse ereditario complesso, che ci hanno scritto chiedendo quali fossero le forme a norma di legge, quindi nel rispetto della normativa, per indicare tra i beneficiari determinate prestazioni anche persone che sono state indicate genericamente come amiche. Ecco. Quindi non abbiamo, come ma dire, ma non avviene mai al contrario, che sono donne che invece sottoscrivono polizze per amiche? Sarebbe molto interessante se ciò avvenisse. Lancio oggi questa petizione ufficiale. Abbiamo avuto di recente la comunicazione che un terzo di patrimoni più ingenti gestiti da alcune SIM, parliamo di patrimoni medi di 7 milioni di euro, sono intestati a signore. I miei complimenti, siamo delle fallite, Nicoletta, io te lo dico qua da questo microfono. Un'ultima considerazione volevo farla, professora Guiari. Allora, noi stamattina stiamo focalizzando l'attenzione, partendo dal caso Raggi, sulle polizze vita, le temporanee a caso morte o le miste, quelle con contenuto finanziario. Ma, per esempio, tutte le polizze assicurative, tutti gli strumenti assicurativi possono configurarsi secondo la modalità che abbiamo detto stamattina. L'RC auto, per esempio, io posso essere il contraente della polizza che mi tutela appunto alla guida e rendere beneficiario qualcun altro? Sostanzialmente no, perché la polizza RC auto è proprio una polizza di responsabilità civile terzi. Il beneficio mette, diciamo, mette a garanzia il patrimonio dell'assicurato da richieste che terzi, e solo i terzi che hanno ricevuto un danno dalla mia circolazione possono beneficiare. Quindi il beneficiario è sempre il terzo, ossia colui che ha subito il danno. In questo caso la terzietà è quella che ci aiuta a identificare chi sarà il beneficiario del risarcimento stesso. Certo. Allora, qui non abbiamo consulenti, assicuratori, broker, abbiamo un giornalista, un professore universitario, però magari per concludere, professora Guiari, diamo un po' due o tre dritte su quello che ci insegna anche questa situazione, ammettendo di voler fare una polizza di questo tipo, rendendo beneficiari appunto qualcun altro, naturalmente in un'ottica completamente nobile dell'iniziativa. Come facciamo a fare in modo che avvenga tutto secondo, vabbè, la normativa è molto chiara, c'è questa disciplina IVAS che abbiamo indicato, ovviamente. Certo. Allora, affidarsi a un assicuratore corretto, ovviamente senza far nomi, però corretto vuol dire appunto che eserciti in maniera trasparente, che ci faccia proprio una consulenza a 360 gradi su come funziona, e che non voglia subito il premio e basta, che ci spinga a sottoscrivere in due secondi. Capire qual è la nostra esigenza. Qualsiasi prodotto assicurativo è importante, basilare, quasi essenziale talvolta, se è costruito sulla mia reale esigenza. E quindi che io sia poi il beneficiario del io stesso contraente, sia il beneficiario del prodotto appunto che sto costruendo insieme all'assicuratore, o ne sia un terzo, cambia poco. La necessità, insomma, è quella proprio, come ripeto, della trasparenza, del sapere che cosa accadrà al momento in cui si verificherà quell'evento, che comunque deve essere aleatorio. il prodotto assicurativo, diverso dal prodotto bancario, ha come base proprio questa incertezza sul determinarsi dell'evento, o quando si determinerà, o se addirittura si determinerà. È tipicamente una tutela contro i rischi, ovvio. Professore, devo salutarla. Abbiamo chiuso 5 secondi. Tra gli altri temi di Plus 24 di questo weekend, vuoi anticiparci qualcosa, Nicola? Sì, abbiamo una serie di riflessioni sulla questione dei bond, in particolare dei titoli di Stato alla luce dello spread a 200 punti base. Tutto, ci sentiamo domani. Buona giornata.